12.000 voti in più su quasi 5 milioni. Nella notte la Georgia ha confermato nel riconteggio la vittoria di Joe Biden in una tradizionale roccaforte repubblicana, rendendo sempre più esili le argomentazioni già fragili dei sostenitori e degli avvocati di Donald Trump. In America nelle ultime 24 ore si sono registrati 200.000 nuovi casi e 2.200 morti per Covid, e l'attenzione resta concentrata sulla lotta al virus, ovviamente anche da queste parti, con infinite discussioni su come sarà il Natale e se e quali restrizioni vigeranno. Proprio l'incertezza e le tensioni con le categorie spingono il governo, che oggi varerà un terzo decreto ristori comprensivo di sospensione delle tasse e uno scostamento di bilancio da 10 miliardi. Per votare questi provvedimenti e la manovra arriverà in soccorso Forza Italia? Probabile, perché l'altro tema, forse il tema centrale di giornata, è tutto politico. Una giornata appunto convulsa nella quale Salvini ha sfilato, per così dire, tre parlamentari agli azzurri. L'avvicinamento del partito di Berlusconi alla maggioranza è nelle cose. La rottura nel centrodestra ad un passo, o forse cosa fatta. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è venerdì 20 novembre, sono le 6 e 34 minuti. E la giornata, appunto, fa segnare come uno degli argomenti principali questa rottura all'interno del centrodestra. Ma abbiamo davvero bisogno di questo balletto adesso? Ma... 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Siamo come sempre anche in diretta su Facebook, ci trovate anche là. Pietro La Corte in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e in redazione anche Giorgio De Luca, Gloria Guerrera, i nostri autori, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Il balletto del centrodestra e... questo avvicinamento tra Berlusconi e la maggioranza, con tutti i retroscena che si porta dietro, e quindi l'idea che poi alla fine si possa arrivare a scalzare Conte e a mettere Draghi là. Perché ve lo ricordo, alla fine di questa pandemia ci sarà da gestire un debito pubblico che già era di dimensioni inenarrabili e che sarà ancora più grande. E quindi l'idea sotto traccia è: meglio metterci uno che col debito pubblico e con quelle materie le sa maneggiare, La famosa ipotesi Draghi, che ormai è, come ve la ricordate, l'ipotesi Amato. Se ne parlava sempre, cioè ogni volta che cadeva un governo c'era l'ipotesi Amato. Ormai l'ipotesi Draghi è là. Vabbè, sentiamo due voci su questa confusione politica. Licia Ronzulli di Forza Italia. Berlusconi è stato chiaro: Forza Italia al governo non entra né ora né mai. Da questo governo siamo distanti e siamo distinti. Forza Italia resta saldamente all'opposizione, resta saldamente agganciata al centrodestra. Poi Salvini ha detto una parte di Forza Italia, Salvini si sbaglia. Invito Salvini a fare una telefonata a Berlusconi stamattina, così si chiariscono una volta per tutte. Giorgia Meloni. Una sincera intervista del sindaco di Bergamo di questa mattina, il cui titolo è "Separiamo Berlusconi dai sovranisti". Perché vede, la differenza è che ieri il vice segretario del PD Orlando ha detto una frase che mi ha molto colpito: bisogna leggere con attenzione le proposte di Forza Italia. Cioè, che significa? Le altre le possiamo cestinare, non ce ne frega niente se ci sono buone idee, che vengono da persone che magari non ci sono simpatiche. Così, così appunto Giorgia Meloni. E nel frattempo a Fratelli d'Italia, ho pescato su qualche giornale, poi adesso vi dirò dove, Ignazio La Russa, che dice: guardate che due di questi sono venuti anche da noi a chiederci se potevano entrare dentro Fratelli d'Italia, perché probabilmente temono di non essere rieletti. E noi gli abbiamo detto no, perché abbiamo rispetto nei confronti di un alleato che è appunto Forza Italia. A testimonianza che questa mossa di Salvini di accettare queste tre persone all'interno del gruppo della Lega qualcosa vuol dire, ragazzi. Ha ragione l'ascoltatore, certo che questo balletto è rilevante perché ha a che fare con i provvedimenti che verranno approvati dal governo e quindi ha a che fare con la gestione della pandemia, con la parte economica della pandemia. E quindi dice: non definirlo balletto, no, lo definisco balletto perché in questo momento è tutto meno quello che ci serve questa sceneggiata politica. Poi certo avrà un impatto presumibilmente, perché parte delle proposte di Forza Italia verranno accettate. Cara Marianna Aprile, buongiorno, come stai Marianna? Bene? Bene, bene. Bene, giornalista di oggi, il suo libro Il Grande Inganno, First Lady, Nemiche Perfette ed Eroine Silenti, che io lo cito sempre perché fa sempre, sempre bene, perché mi è piaciuto. Allora Marianna, come la leggi? Come la leggi? Perché poi Silvio Berlusconi ha provato a calmare gli animi, qualche ascoltatore ce lo dice: ma quale rottura? Berlusconi ieri ha fatto una nota nella quale dice: no, ma dobbiamo di fatto una nota conciliante, parzialmente conciliante nei confronti di Salvini. Certo, però che quello di ieri è un passaggio decisivo, È anche inevitabile forse, vista la situazione in cui si trovano entrambi i personaggi in questione. Da una parte c'è Berlusconi che in qualche misura, a parte le necessità legate alle sue aziende, molto si è discusso, il decreto salva media, eccetera, ma al di là di quello è in una fase della sua vita personale e politica in cui una collocazione più conciliante, più da padre nobile del centrodestra, con un ruolo più ragionevole dal punto di vista istituzionale, è forse il tassello che manca a una parabola altrimenti discendente, perché Forza Italia insomma è sempre più minoritaria all'interno del centrodestra. Quindi il modo per riacquistare in qualche modo centralità anche all'interno dell'area moderata poteva essere solo questo. D'altra parte Salvini non può che fare Salvini, cioè dire no a qualsiasi cosa e cercare anche attraverso i mal di pancia dentro Forza Italia di erodere qualcosa a Forza Italia per contrastare l'ascesa della Meloni, che infatti, a parte qualche dichiarazione proprio di necessità, la cosa che ho fatto sentire prima è una cosa quasi di circostanza, direi, no? Mi pare, sinceramente. È abbastanza attendista, non ha preso posizioni forti in questa fase, non le conviene peraltro. Quindi, decisamente. Non so Marianna se hai qualche problema, se hai un auricolare o qualcosa di questo genere, però abbiamo qualche problema di collegamento con te, nel senso che non si sente benissimo. Va meglio adesso? Sì, mi pare proprio decisamente di sì. Vedremo come procederà questa cosa. Nel frattempo, come lo dicevo, ieri il governo ha annunciato che oggi farà un altro consiglio dei ministri per i cosiddetti ristori terra, per il cosiddetto decreto ristori terra, con un occhio sul Natale. Per fortuna è finita, almeno per il momento, la retorica melensa sui nostri cari, cosa faremo, il cenone. Abbiamo però un presidente del Consiglio che ci dice: il Natale sarà sobrio. Così interpellato, giustamente, la risposta del ministro Boccia mi piace tantissimo, sentiamolo. Oggi non riesco a parlare non solo di Natale, ma neanche dell'Immacolata. Devo occuparmi di quello che succede in questi giorni. Dobbiamo mettere in sicurezza il maggior numero di persone che hanno bisogno di cure e consentire agli operatori sanitari di fare nel miglior modo possibile e in maniera davvero umana un lavoro eccezionale che fanno. A dire con queste frasi, ma di che stiamo parlando? Che è più o meno quello che dice Zaia. Sai, su Natale ci vorrebbe la sfera della verità. Chi è oggi che è in grado di programmare le sue vacanze estive? Guardate che cosa sia la sfera della verità, però. Dite, sì, ma il Covid come sarà quest'estate? Mi compro un viaggio, non me lo compro, ma ci sono gli aerei, non ci sono. Pensate a Natale che è qui dietro all'angolo. Più noi, ecco, questo te lo posso dire, più noi investiamo nella tutela, nel rispetto delle regole, più possibilità abbiamo di avere un Natale quasi normale. Poi Veneto, sappiamo, Luca Zaia, naturalmente presidente del Veneto, e la venetizzazione che prosegue, inizia a dare del tu ai giornalisti, credo che nella fattispecie fosse a porta a Bruno Vespa, perché è abbastanza tipico dei veneti, l'utilizzo del tu indiscriminato. E va bene, piccola nota di colore se volete. Natale che oggi torneremo a parlarne, che dicono, propongono alcuni, Salvini, Gasparri, senza Amazon. Ieri tra l'altro la Francia ha raggiunto un accordo con Amazon. Amazon bloccherà il Black Friday, anche quello temone aperto. Marianna, la realtà è questa, è che noi siamo qua tutti in una situazione quasi sospesa, mi sembra di poter dire, in attesa di questo 3 dicembre e questo nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ci dirà cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare, punto. Adesso c'è un po' che chiacchiere su questo, no? Sì, e su cui iniziano a trapelare già prime indiscrezioni, segno insomma che non abbiamo imparato praticamente nulla dalla gestione dei decreti precedenti. Sì, diciamo, dovrebbe bastare quello, tutto il discorso, la polemica che si sta facendo sul Natale, sono d'accordo con Boccia, ci sono altre priorità, però non è banale. Cioè, il modo in cui questi divieti e questi permessi vengono erogati conta, perché il tono da concessione, il divieto espresso dell'abbraccio, cioè dopo 10 mesi di pandemia, che non dobbiamo abbracciare le persone, piuttosto è entrato in testa, diciamo, no? Penso, e sì. Quelli a cui non è entrato in testa non entra in testa neanche a Natale. Quindi diciamo che la scelta della linea da sermone fatta da Conte rischia di essere controproducente, perché sposta il piano della comunicazione e quindi dell'efficacia del decreto. La comunicazione deve essere sul piano della norma, non dell'etica né del rispetto, né sentivo l'altro giorno che diceva riscopriremo il vero senso del Natale in chiave più intimista. Che nervi, che nervi quando sento queste cose, dalle figure istituzionali. Esatto. Hai perfettamente ragione, non me lo devi dire tu, me lo dirà un prete se come riscopro il senso del Natale, se mai, non me lo deve dire il Presidente del Consiglio o un ministro o un leader dell'opposizione, vale per tutti. Ma guarda, non è un'orticaria d'atea, è proprio, credo che sia inefficace dal punto di vista politico, cioè è un errore proprio di comunicazione. Detto questo, sappiamo tutti dello zio cappuccino di Conte, dell'immaginetta di Padre Pio nel taschino, e quindi evidentemente l'uomo ha anche questo suo aspetto così, diciamo, ammiccante a un'etica religiosa che finora c'era un po' sfuggita, però così è, traffico. Quattro mattino. In tutto ciò, in tutta questa questione politica, questi rapporti di Forza Italia con la maggioranza che si intensificano, questa rottura con Salvini, interviene anche la magistratura. Con un'inchiesta su Tallini, ormai lo sapete, il presidente del Consiglio regionale della Calabria, che è stato arrestato, l'accusa è di aver fatto da tramite agli interessi della criminalità organizzata nella distribuzione di farmaci da banco in Calabria. L'inchiesta è guidata dal procuratore Gratteri. Ieri su questo tema un altro paio di interventi politici. Sempre Licia Ronzulli ad Agorà di Forza Italia, che addirittura evoca un caso torto, evoca il caso torto. Abbiamo assistito in questi anni a diversi casi tortora in Italia, ricordo il caso Bassolino, quindi francamente di casi che sono stati gonfiati e poi si sono sgonfiati e sono risultati innocenti, purtroppo l'Italia è piena. Quindi io prima guardo che cosa c'è nelle carte. A proposito della commissione antimafia, non era stato segnalato per mafia ma una segnalazione per corruzione che poi non è andata a finire da nessuna parte. Hanno scelto e hanno votato con le preferenze il consigliere Tallini. Baldino del Movimento 5 Stelle ricorda sempre ad Agorà che Tallini era in realtà già considerato un impresentabile. Voglio ricordare che il consigliere Tallini era stato dichiarato impresentabile dalla commissione antimafia rispetto ai controlli che fa prima delle regionali, impresentabile perché rinviato a giudizio per corruzione, quindi non è una persona sconosciuta alle indagini o ai magistrati, era una persona che era stata già segnalata dalla commissione antimafia prima ancora della celebrazione delle elezioni regionali. Nonostante questo è stato candidato, è stato eletto ed è stato eletto anche il presidente del Consiglio regionale. Oh, comunque questa storia del Natale vi sta scatenando, vero? Vedo, tra chi ci scrive la mia sociopatia ringrazia per il Natale, per così dire, sobrio. Un altro ascoltatore dice: l'unico giorno che mi frantumò, non proseguo, è il pranzo di Natale, spero ci sia l'esercito agli incroci per fermare le persone che vanno dai pareti, fermate tutto. Natale da soli, Natale con i parenti, dai. Diteci come ve lo immaginate questo Natale sobrio. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio. C'è un'altra grande questione aperta, che è quella che noi stiamo mettendo in manovra, nella prossima manovra, stiamo mettendo dei soldi che non abbiamo e non sappiamo se arriveranno, perché sono i soldi del Recovery Fund. Nella manovra sono previsti 120 miliardi nel triennio, di cui 34 miliardi solamente l'anno prossimo, e però l'accordo non c'è, come ben sapete, perché Ungheria e Polonia stanno mettendo il veto sul bilancio europeo e stanno mettendo quindi il veto anche sul Recovery Fund. Qual è la motivazione? Beh, ormai la sappiamo, il fatto che Ungheria e Polonia sono sotto accusa per aver violato le regole dello Stato di diritto previste dall'articolo 7 dei trattati e che per questo rischiano di non ricevere più soldi dall'Unione Europea, fondi dei quali sono ampiamente beneficiari i due paesi. Giorgia Meloni li difende. Lo Stato di diritto è una norma contenuta nei trattati europei all'articolo 7, cioè consente alla Unione, rispetto a paesi che dovessero violare alcuni principi, un meccanismo sanzionatorio. Se l'Ungheria e la Polonia violano lo Stato di diritto, perché l'Unione Europea non ha attivato l'articolo 7? Glielo spiego io a Giorgia Meloni, perché per attivare l'articolo 7 ci vuole l'unanimità e Ungheria e Polonia sono componenti di questo circolo, di questi 27 che votano, e quindi non si può attivare l'articolo 7, molto semplicemente. Cara Marianna, questa è una partita strategica, centrale, importantissima, anche se vogliamo fondativa dell'Europa, non solo in termini economici ma anche appunto in termini politici, come questa vicenda dimostra. Sì, ma l'articolo 7 è il nuovo comma 22 praticamente, è un'assurdità, però dicevi bene tu, cioè la partita su questo principio, più che sui soldi, i finanziamenti da attivare, da revocare, eccetera, si gioca sul tema dell'identità dell'Europa, perché al di là di tutte le beghe e della fatica che c'è stata e che ci sarà ancora per farlo partire questo benedetto recovery fund, il punto di novità della sua concezione stava nel fatto che per una volta l'Europa agiva anche sui mercati da organismo unico, facendo un debito che veniva condiviso tra i virtuosi e i meno virtuosi, e questo era, diciamo, un tassello importante, no, che annunciava quello che l'Europa pensa di voler diventare da grande. Cedere sull'articolo 7, comunque, diciamo, non attivarlo, l'articolo 7, o non trovare sistemi per far pesare, sorpassando il comma 22, quell'articolo 7 con Polonia e Ungheria, significa di fatto abdicare a uno dei principi base dell'identità europea. Cioè, il suo diritto non dovrebbe nemmeno esserci all'articolo 7, dovrebbe essere, come dire, il prerequisito per entrarci, sì, in Europa rispetto di quelle regole. Questo che ci dice che verosimilmente si tratta di questioni più di facciata che di sostanza, di un tiro e molla che verosimilmente arriverà a fine anno, cioè alla fine della presidenza Merkel, e che da cui si verrà fuori con qualche concessione, così come è successo con i frugali all'inizio della discussione sulle recovery fund. Cioè, è una trattativa, come tutte le trattative, verrà stressata fino all'ultimo minuto utile, dopodiché conviene a tutti che recovery fund, sì, comprese Ungheria e Polonia, esatto, naturalmente, comprese Ungheria e Polonia. Marianna, ci sentiamo alla prossima, grazie. Alla prossima. Grazie, buona giornata. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo subito dopo con la rassegna stampa. Oh, molte cose, tra l'altro, se volete, come spunto di dibattito c'è anche questo. È l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Milano dal 2021, dal 1 gennaio del 2021, si potrà fumare all'aperto praticamente solo a almeno 10 metri di distanza da un'altra persona, e non nei parchi, non alle fermate degli autobus, non nelle aree cani, non negli impianti sportivi. Il tema è la lotta all'inquinamento. Su questa base, sul tema della qualità dell'aria, è stata approvata questo pezzo di questa legge. GR24, ci risentiamo tra poco.